Buongiorno gente, benvenuti a InSo Podcast, che ha un nome improponibile per raccontarvi quello che sono i miei pensieri, qualche ragionamento o qualche fesseria così che mi viene da raccontare durante la giornata. Ne approfitto e lo inauguro perché è stato il mio compleanno l'11 di gennaio e grazie a questo ho fatto una serie di ragionamenti che sono sfociati in un post sul mio blog dal titolo Il virtuale reale e grazie del vostro affetto. Nasce tutto appunto dal compleanno, 52 anni, e con un tweet ho ribadito di quanto sarò abbastanza grato a questo posto, cioè Twitter, per avermi regalato l'amicizia di tante persone, il valore dei pensieri e anche il limite inferiore dal quale tenermi lontano. E un consiglio, poi concludevo con un consiglio: regalate bellezza, aggiungete valore, a volte basta anche un sorriso, solo un sorriso. Ecco, sulla scorta di questo tweet, tutta una serie di centinaia di commenti, di dimostrazioni d'affetto, di questa rete di relazioni che ho costruito in tanti anni insieme ovviamente alle persone che hanno interagito, che hanno avuto piacere di condividere il loro tempo con me e niente, quello che il ragionamento che è uscito fuori è che virtuale è reale, come il tweet degli amici di Parole Ostili che con uno straordinario strappo alla regola ci rammentano quanto le relazioni digitali siano solo una forma di relazione umana. Ve lo cito testualmente, in cui ribadiscono che conosciuto tra un tweet e l'altro e un post è diventato un amico vero, la dimostrazione concreta che virtuale è reale. E quindi buon compleanno. Ecco, tutto diciamo che nasce da lontano, stiamo parlando di 10-11 anni fa, un mondo che era parecchio diverso, dove i social e la comunicazione digitale erano spesso sperimentazione, divertimento, potenzialità, artigianalità anche, ingenuità, curiosità, che forse adesso non esiste più in quella forma così pura, così semplice, così anche ingenua. La verità è che il mondo è molto cambiato in questi 10 anni e quindi forse non esisterà più quella purezza e ingenuità appunto che esisteva nei primi anni. E poi ci sono, vabbè, gli amici che te lo ricordano forse solo per farti sentire vecchio, come Renato Cifarelli che mi scrive che quando Insopportabile aveva già decine di migliaia di follower manco sapevate che esisteva il Twitter. Oggi compie gli anni, anche se è sempre un gran bel giovane, che il Twitter si unisca per fargli gli auguri, gli invidiamo di sicuro il pranzo. Questo ovviamente per citare la santa moglie, che è sempre onnipresente, di cui parleremo spesso, mi auguro, in questo podcast. Però i social hanno aperto anche un modo diverso anche per me, che nasco con il digitale. Io la prima esperienza con il digitale l'ho fatta a 12 anni e quindi insomma l'ho visto nascere veramente e ho sguazzato tra tutti gli strumenti e quindi mi ha sempre affascinato il poter giudicare le persone per quello che raccontano, cioè immaginarmi cosa siano solo da quello che raccontano e giudicarle per quello, non per la sovrastruttura che spesso la socialità ci crea intorno, ci crea sopra e sotto. So benissimo che è solo una piccola porzione del nostro essere quello che appare sui social, è una porzione che decidiamo noi di esporre secondo i contesti sociali nei quali ci rappresentiamo. Però è curioso perché ci si fida di sconosciuti tipo me, con un nickname improponibile, anzi insopportabile, e si instaurano rapporti anche profondi di pensieri, di idee, di anima, di empatia, di stima. E quindi appunto una persona come me, che non ha un nome e un cognome, ma un nickname inquietante con un colore blu e un iride verde, pur avendo un account curiosamente verificato senza avere un nome e cognome, gode addirittura lo status di persona stimata. Ecco, questo ogni volta mi sorprende e un po' mi commuove. Come ha ben sintetizzato la Cavallaro, Stefania Cavallaro, che in un tweet dice: ma pensa un po' il miracolo di Twitter, la stima libera dell'apparenza. spiega bene quanto la rete sia relazione, quanto sia appunto un qualcosa che prescinde dall'aspetto fisico, dal ruolo che uno ha nella società, ma spesso proprio si ragiona solamente su quello che si comunica. La rete relazione, dicevo, ma è anche pratica e piacere quotidiano. Io la vedo così, la vivo così, nel dialogare per aggiungere valore e calore alla propria esistenza, e conoscendo il mondo e le persone, forse solo per capire meglio noi stessi. È un'autoanalisi quasi nel rappresentare se stessi in un mondo interattivo. È un piacere e non è un lavoro o un piano editoriale come invece spesso si vede in rete. Perché essere sui social è molto diverso che stare sui social, esserci e essere presenti, avere coscienza proprio dell'importanza anche della rete di relazioni umane che si instaura. Ed è così che ti senti di essere un pezzetto della vita degli altri. Magari un mezzo sorriso, un pensiero evocato, un desiderio o anche un urticante ricordo. Nella connessione digitale sentirsi neuroni del grande cervello dell'umanità e collaborare alla maturità e crescita della stessa, anche cazzeggiando se occorre, ovviamente. Sembrano parole complicate da filosofo, da quattro soldi in effetti. Ma cazzeggiando, dicevamo, come fa notare l'amico Carnevale Maffè, che dice che quando è arrivato insopportabile su Twitter eravamo così pochi, ma così pochi, che la timeline ci stava tutta sullo schermo di un BlackBerry. Oppure l'amico Polo Condò, che non vorrei offenderti, ma sei di gran lunga la persona più sopportabile di questo circo. Ora, le amicizie in rete di persone che mai si sono incontrate, persone che si conoscono per quello che comunicano, spesso raggiungono un livello di profondità che è veramente incredibile, e che poi si amplifica nel momento in cui si incontrano, senza dimenticare ciò che siamo stati e quanto dobbiamo a chi non c'è più. Parliamo di persone che sono un po' sparite dalla nostra quotidianità, ma anche strumenti come il mai abbastanza compiato social, estinto, ormai estinto, Friend Feed, terminato dall'assassino Zuckerberg di social, che è stato per me determinante per la mia crescita e maturità, per la rete di relazioni, che mi ha portato a un approccio davvero consapevole, forse traumatizzato dalle mazzate che venivano date dai frequentatori di questo social, e che ancora ogni tanto nelle pieghe della rete riesco a frequentare con grandissimo piacere. Virtuale e reale abbiamo detto, ma la parola chiave è anche comunità. Di intenti prima che di ideali, di valori prima che di utilità, in una rete che ormai è ossessionata dal cercare un'utilità nelle gare di personal branding, nella vendita ossessiva di qualunque cosa, prodotto o servizio, nell'emergere a qualunque costo, anche con mezzi veramente al limite della decenza prima che della legalità, ogni giorno. Io provo a migliorare la vita degli altri con le parole, con i silenzi e semplicemente con la presenza. Perché sono fermamente convinto che senza gli altri saremmo molto meno noi. E perché i social non sono il problema, lo sono le persone che pensano che siano un universo parallelo, un universo dove le regole sono diverse, dove le persone sono diverse, dove si può tranquillamente adottare una pratica di vita diversa. Perché vige una sorta di impunità percepita, quando invece non è assolutamente così. Quindi miglioriamo la vita delle persone e miglioreranno tutti i luoghi nei quali vivono e comunicano. E bisogna esserci anche sbagliando, perché bisogna esserci per stare insieme, perché a volte si è veramente travolti da una modalità ostile di rete, da una modalità inutile, da una modalità anche disturbante, però sempre meglio starci in questo mare di contenuti che non starci, perché non starci significa privarsi della possibilità di conoscere, privarsi della possibilità di conoscere soprattutto le persone. Ecco, perché io comunque, come sugli auguri che mi faceva Alessandro Parodi, mi indicava come faro della rete farò ieri, oggi e domani, e io rispondevo che più che farò preferisco essere farò, perché ho sempre privilegiato la modalità costruttiva. A me piace vedere il bicchiere mezzo pieno, spesso mezzo pieno di vino, ovviamente, perché appunto in un mondo di persone che si agitano per essere riferimento, tutti vogliono essere riferimento di qualcosa e voler emergere in campionati appunto di ego a squadra. Io preferisco correre in gruppo per migliorare la nostra salute insieme, per essere proprio più anche divertiti di questo modo di essere, cioè non solamente una modalità passiva, ma appunto esserci in maniera divertente. E magari ogni tanto anche fermarsi ad osservare quanta bellezza abbiamo intorno. Questa potrebbe essere una pratica ed un consiglio che mi viene da darvi. Perché abbiamo intorno, soprattutto nelle persone nascoste nelle pieghe della rete, ce ne sono tante, tantissime, che sono sovrastate da uno spettacolo di questo circo luccicante e chiassoso, che spesso non hanno nessuna possibilità di farsi ascoltare. E allora piano piano si emarginano da soli, tendono a rimanere dietro le quinte, addirittura ad abbandonare gli strumenti. Ecco, questo è il problema più grande. Il problema più grande è perché le persone devono avere le possibilità di potersi esprimere, di poter essere ascoltate. Ascoltare, provate ad ascoltare fuori dalla vostra bolla, provate a interagire per raccogliere valore e minare le vostre certezze. La rete e i social sono una straordinaria opportunità, perché quando mai è potuta esistere nella storia dell'umanità poter conoscere persone e la sapienza del mondo in pochi istanti e senza filtri? Mai, proprio mai. Ecco, vivere questi tempi è una grandissima opportunità. Guardiamo la rete mezzo piena e proviamo a riempirla per l'altra metà. Fidatevi di un vecchio di 52 anni. Alla prossima, gente.